Fabbrica 2.4. Viaggio nell'industria che cambia, di Filippo Astone. Lei è bella, lo so, è passato del tempo e io ce l'ho nel sangue ancora. E vorrei ritornare laggiù da lei, ma so che non andrò. Queste sono situazioni di contrabbando. Meglio star qui seduto a guardare il cielo davanti a me, Messico e nuvole. Avete appena sentito Messico e nuvole, la canzone di Iannacci ricantata da Paolo Conte. Vi direte, che cosa c'entra questo con la manifattura? C'entra, perché in questa puntata con Stefano Aversa di Alix Partners, che in questo periodo è intensamente nostro ospite per parlare di manifatture di auto, parliamo delle dichiarazioni e delle decisioni di Donald Trump sul tema della manifattura, delocalizzazione e rilocalizzazione relativamente al Messico e alle barriere verso il Messico. Aversa è anche un esperto di auto e il tema riguarda proprio i produttori di auto. Allora, ingegnere Aversa, che cosa significano queste dichiarazioni, questi provvedimenti in pratica per l'industria automobilistica americana e mondiale? Ma le dichiarazioni di Trump sono in linea con la sua politica, diciamo, di recupero di posti di lavoro in America o lo sviluppo di posti di lavoro in America. Quello che è successo negli ultimi anni è stato un aumento molto elevato di investimenti, in particolare in certi settori, incluso il settore auto in Messico, che naturalmente sfrutta la prossimità con gli Stati Uniti e un costo del lavoro estremamente vantaggioso, e una infrastruttura industriale comunque di ottimo livello. Quindi oggi circa il 20% della produzione di veicoli venduti nel Nord America vengono dal Messico, sono circa 3,5 milioni nello scorso anno, e si prevede che questo possa diventare addirittura il 25% nel 2020. Ora, con circa 24 miliardi di investimento di dollari investiti dal 2010, è chiaro che io non posso fermare la storia, e né ci riuscirà Trump, per quanto sia l'uomo più potente del mondo in questo momento, e quindi mi aspetto che ci sarà un processo in cui verranno incentivati gli investimenti negli Stati Uniti e magari disincentivati quegli investimenti ulteriori altrove, ma continuerà il Messico ad avere un ruolo assolutamente importante, fondamentale nella produzione di auto vendute anche negli Stati Uniti. Quindi ci sarà una politica di incentivi più che una politica di disincentivi, perché nemmeno Trump può bloccare le grandi case automobilistiche americane. Ma in teoria può, in pratica avrebbe delle conseguenze molto devastanti, per cui il Messico, poi si parla anche di Cina, è chiaro che tutto questo porterebbe a delle reazioni uguali e contrarie da parte di questi paesi, e quindi con una escalation che potrebbe portare nel breve magari qualche vantaggio, ma nel medio termine una depressione del trade, del commercio e quindi anche della generazione di ricchezza a livello mondiale. Quindi sarebbe una politica a mio avviso deleteria. Ci interrompiamo un attimo per gli avvisi sul traffico e la pubblicità, restate con noi. Fabbrica 2.4. Lei è bella, lo so, è passato del tempo e io ce l'ho nel sangue ancora. E vorrei ritornare laggiù da lei, ma so che non andrò. Queste sono situazioni di contrabbando. Meglio star qui seduto a guardare il cielo davanti a me, Messico e nuvole. Ancora Messico e nuvole, perché oggi parliamo di Messico e di manifattura negli Stati Uniti. Siamo in linea con l'ingegner Aversa, che è uno dei più grandi esperti del tema, e dicevamo che la politica di Trump dovrebbe essere più sugli incentivi piuttosto che sui disincentivi. Comunque, le sue dichiarazioni sul Messico sono piuttosto pesanti. Sentite qua. About a year and a half ago I heard that Ford, anybody work for Ford here? Circa un anno e mezzo fa ho sentito che la Ford, c'è qualcuno che lavora per la Ford qui? Una buona azienda, una grande azienda, un'azienda intelligente, ma ho sentito che la Ford sta per costruire un gigantesco stabilimento in Messico. 2,5 miliardi di dollari, uno degli stabilimenti più costosi che ci siano. Costruiranno automobili, autocarri e componenti, le costruiranno in Messico e li spediranno negli Stati Uniti. Ora, ascoltate e non preoccupatevi, amici. Io sono dalla vostra parte e questa è la ragione per cui sono avanti di un sacco di voti in Michigan, perché tutti sanno che mi occupo di auto. Ecco, rientriamo dopo le dichiarazioni di Trump. Ma, ingegnere Aversa, ma comunque le aziende italiane che sono andate in Messico, tipo la Brembo o tante altre, che cosa devono pensare secondo lei? Ma come in particolare la Brembo, come tutti i componentisti, ce ne sono molti, tenete presente che più di 60 miliardi di dollari di componenti vengono venduti ogni anno dal Messico agli USA e non esiste praticamente vettura negli Stati Uniti che non abbia almeno una parte importante di componentistica che viene dal Messico. Secondo me hanno relativamente poco da temere, è più nel guardare avanti, pensando sicuramente, specialmente per certi prodotti che non possono viaggiare per migliaia di chilometri, pensare sicuramente di mettere nelle strategie anche la produzione negli Stati Uniti in aggiunta a quella del Messico, o un misto delle due, cosa a cui alcuni produttori stanno già pensando, quindi magari la parte di valore aggiunto maggiore fatta in Messico e i montaggi finali o i controlli finali fatti negli Stati Uniti. Quindi ecco, ma tutto questo... ci sono strategie che possono in qualche maniera mitigare questo impatto. Tutto questo però aumenta molto i costi da parte delle aziende, ma la borsa però lo premia, non è una contraddizione secondo lei? Ma la borsa alle volte ragiona con logiche che non sono necessariamente industriali, però in questo caso l'attesa della borsa è che in generale ci sia una spinta all'economia americana, se non altro per un piano di infrastrutture che è si parla di un trillion di infrastrutture che a loro volta muoverà il mercato e quindi creerà ricchezza che poi viene spesa nei diversi settori. Quindi c'è questo aspetto importante sugli investimenti infrastrutturali, c'è sicuramente la volontà di riportare o perlomeno di non continuare a portare all'estero il lavoro. Tutto questo potrebbe viene anche visto in maniera, spingere la domanda positiva interna degli Stati Uniti e quindi far aumentare i consumi e quindi tradursi in performance migliori dell'economia in generale, anche se per un certo periodo comporterà più costi per alcune aziende. Sì, un ultimo punto è anche la deregolamentazione, la creazione dell'Economic Forum a cui appunto partecipano anche i tre CEO dell'auto, Mary Barra, Sergio Marchionne e Mark Field, e insieme a tanti altri, e anche questo un segno di una volontà, diciamo, pro-business della politica che Trump ha iniziato e che vuole continuare a portare avanti. Comunque, sui numeri del Messico manifatturiero, sentite questa scheda. Sono molte le aziende manifatturiere italiane che hanno creato stabilimenti produttivi in Messico. Lo scopo è di fabbricare merci da vendere per lo più negli Stati Uniti, grazie all'accordo NAFTA. Per esempio a Monterrey, la capitale dello stato del Nuevo León, a 150 km dal confine americano, la Brembo ha inaugurato a fine 2016 una nuova fabbrica. 32 milioni di investimento per 500 posti di lavoro. E, prima dell'era Trump, sono stati annunciati ulteriori 80 milioni di investimenti. Monterrey è la terza città messicana per popolazione. È una delle più importanti per le produzioni automobilistiche. Invece a Toluca, nello stato federato del Messico, FCA fabbrica la Fiat 500, il Fremont, il Dodge Journey e presto dovrebbe trasferire dagli Stati Uniti la produzione di un nuovo SUV Jeep. A San José Iturbide, la Ferrero produce Nutella e Kinder per tutto il mercato nordamericano. Spostandoci ancora, nello stato di Guanajuato, Pirelli ha investito negli ultimi 3 anni 400 milioni di dollari per realizzare una fabbrica che fornisce i pneumatici per i SUV sul mercato messicano e statunitense. Ma in Messico ci sono anche importanti investimenti italiani dedicati al mercato interno. Sono quelli di Eni e di Enel Green Power per le rinnovabili e di Buzzi Unicem per il cemento. Secondo il Ministero dell'Economia messicano, nel solo 2015 le aziende italiane in Messico erano 722, con investimenti per 722 milioni di dollari. La cifra però comprende anche piccoli investimenti e ristoranti e alberghi. Le aziende italiane presenti in modo strutturato sarebbero 350, di cui 100 con almeno uno stabilimento produttivo. In ogni caso, gli investimenti manifatturieri italiani sono poca cosa rispetto, per esempio, a quelli cinesi, che in larga parte sono rivolti al mercato americano. La cifra ipotizzata prima dell'era Trump è colossale, 81 miliardi di dollari. Dal Giappone sono arrivati in Messico anche gli stabilimenti dell'automotive. Ad Aguascalientes, per esempio, la Nissan produce i taxi che servono la città di New York. Ecco, a proposito, ingegnere Aversa, delle case automobilistiche che sono tra le protagoniste delle dichiarazioni di Trump, dichiarazioni alle quali è dedicata questa puntata, noi abbiamo spesso avuto occasione di sentirla in queste settimane ed è rimasto fuori un punto importante, cioè l'aumento del numero degli M&A. Voi di Alix Partners prevedete che ci saranno ancora fusioni tra case automobilistiche americane? Non solo tra le case automobilistiche americane, in generale nel mondo delle case automobilistiche e dei componentisti. Se immaginiamo un mondo in cui l'auto del futuro è un'auto connessa, elettrica, condivisa e anche autonoma, gli investimenti per questa nuova auto sono così importanti che anche i grandi produttori mondiali da soli non potranno sostenere o non potranno sostenere in maniera competitiva. Quindi non saranno necessariamente fusioni, ma ci saranno sicuramente alleanze molto strette per produzioni e sviluppi importanti. E lo stesso Sergio Marchion non ne ha fatto mistero, presentando in maniera pubblica la sua visione del mondo. Certamente, si diceva prima di Mary Barra, diciamo che lui ha fatto un vero e proprio stalking nei confronti della Barra, dicendo che doveva fondersi con lui. L'avesse fatto in ambito matrimoniale o sessuale, l'avrebbero portato a processo. Beh, credo che stalking sia una cosa diversa. In questo caso si parlava di interessi finanziari e industriali molto importanti e sicuramente un allineamento che non c'era fra le strategie delle due aziende. Però lui voleva fondersi con loro. Beh, questo l'ha detto molto chiaramente, ma per fondersi bisogna essere in due. Bisogna aspettarsi, insomma, delle sorprese. Purtroppo il tempo è tiranno. Ringrazio moltissimo l'ingegnere Aversa per il suo prezioso contributo e saluto tutti gli ascoltatori. Ci sentiamo sabato alle 14.00.